È quando scoppia un'emergenza che ci rendiamo conto di quanto siano utili e non solo divertenti telefoni e computer per comunicare, ma anche per ricevere informazioni. Nei giorni successivi al terremoto, Acanto, società di telecomunicazioni modenese, mise a disposizione degli sfollati i suoi 500 chilometri di fibra ottica per ristabilire i collegamenti. Oggi la società supporta i progetti di ricostruzione della Onlus Rock No War a Medolla e Mirandola, ma pensa anche al futuro proprio sulla scorta dell'esperienza fatta in quei momenti drammatici. Roberto Vancini, direttore generale di Acanto. L'obiettivo che abbiamo è di fare delle iniziative che consentano a queste persone, ma non solo agli anziani, ma anche diciamo, alle persone per esempio nelle carceri piuttosto che nelle comunità di recupero per i tossicodipendenti, portare connettività a larga banda su fibra ottica di altissima qualità in modo da consentire di fare lo streaming per esempio di eventi in diretta, come anche mi piacerebbe favorire per esempio il recupero dei contenuti locali di tutti i tipi, cioè dalle fotografie ai filmati ai commenti audio che potrebbero essere messi a disposizione e fruiti da queste persone che hanno sempre un tale radicamento e legame forte con il territorio e che potrebbe quindi in qualche modo consentirgli da un lato di avvicinarsi alle nuove tecnologie, però lavorando e gustandosi dei pezzi della loro vita. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.